Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carla Oliva. Buongiorno a tutti, oggi tocca a me fare i saluti, parleremo di riti, parleremo di certi poveri bambini maltrattati e dei motivi per cui al nostro amico Accame non piace andare a teatro.